Blue Radio. Blue Radio. SMS 346 23 20 033. Blue Radio. Blue Radio. Blue Radio Sera. Blue Radio Sera. Allora, eccoci qua, buonasera alle 21.03 di questo lunedì 13 agosto 2012. Buonasera da Agostino Spolaore, buonasera anche dal mio consueto compagno, fedele, chiamatelo come volete, insomma il nonnetto di Bruno di Vento, e cioè Maurizio. Ciao Maurizio! Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Ecco, ti avevo abbassato anche il volume del microfono. Appunto, essendo nonnetto devi abbassare il volume. Ben ritrovato anche a te. Siamo al caldo, siamo al fresco però qui dentro, ma insomma siamo in agosto, ma siamo qui ancora in diretta dalle frequenze di Blue Radio Veneto. Queste sono 88.700 e 94.600 MHz in modulazione in frequenza. Velocemente vi ricordo anche il nostro numero telefonico, quello in studio, lo 049 875 6423, mentre per quanto riguarda gli SMS vi ricordo il 346 23 20 033. Anche questa sera sarà una sera, una maratona, con la voce mia, con la voce di Maurizio, poi ci saranno anche degli altri amici che verranno a trovarci, ma intanto questa prima parte la voglio dedicare ad un premio che si svolgerà a fine agosto, di cui io veramente sono molto, ma molto onorato di essere stato invitato dal direttore artistico, e cioè da Roberto Giannani, che guarda caso abbiamo al telefono. Ciao Roberto! Ciao Ago, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Blu Veneto, buon vento e buona musica. Grazie, come stai innanzitutto? No, sto molto bene, guardo il mare da questa mia casa di Anacapri e sono molto emozionato per questa serata di gala del 31 agosto. E ti devo dire, ma non per ruffianeria, che sono molto felice che tu sarai con noi. Ti ringrazio, io sono più di te felice, credimi, perché mi sento onoratissimo del tuo invito e mi hai emozionato quando mi hai detto vieni a trovarmi, assolutamente ti voglio giù. Insomma, io sono veramente fiero di venire giù e di conoscerti lì ad Anacapri, insomma. E penso... poi Padova è una città che è nel mio cuore, poi dopo quando ci incontriamo ad Anacapri ti racconterò perché. Ah, va bene, va bene. Io sento un profumino di limoncello lì per caso. C'è qualcuno che lo sta facendo? Beh, più che facendo, io lo stavo bevendo, ecco. Perché stranamente stasera me lo sono preso come aperitivo. Ah, perché ecco. Aspettavo degli amici, sono in ritardo e quindi nell'attesa che questi arrivassero mi sono bevuto, ma appena appena, infatti ecco. Sono in forma smagliante, guarda. Ma me ne tieni un bicchierino anche per me, vero? Sì, certamente sì, faremo un cin cin e brinderemo a tutti gli amici del Veneto ovviamente, tutti quelli che amano la canzone d'autore. Certo, certo. Allora, parliamo di cose serie, Roberto. Come è stata questa preparazione, perché ormai ci siamo, mancano 15 giorni circa, come è stata questa preparazione di questo premio di quest'anno 2012? Ma è sempre un po' complessa, perché sai, sull'isola dalla parte logistica è abbastanza complicata, però io sono molto molto molto contento, soddisfatto. Abbiamo fatto una selezione, i giurati hanno fatto una selezione molto attenta, credo che i 7 finalisti, 3 donne mi pare di ricordare, 4 uomini, abbiano portato delle canzoni d'autore veramente, nel senso hanno coniugato musica e scrittura. Le parole sono molto belle, i pezzi sono intensi, siamo molto soddisfatti. Sono 7 finalisti, io di questi 7 sono in contatto solamente con uno, cioè con un gruppo, con i Diversamente Rossi, che ci siamo sentiti ancora qualche mese fa. Gli altri sono tutti nuovi, ma però ho potuto conoscerli in questi giorni che ci siamo sentiti al telefono per questa collaborazione di questa serata, insomma. E credo siano delle persone veramente squisite, simpaticissimi, sono emozionatissimi, ma ce lo faremo magari raccontare durante la serata. E Roberto, come sono, come i preparativi, la gente com'è lì, come stanno andando le cose? Ma diciamo che Capri ed Anacapri in particolare non soffrono di questa, della malinconia di questa crisi italiana, che poi è una crisi mondiale, e qui gli isolani si stanno difendendo, anche noi certamente abbiamo un piccolo calo, ma è una flessione, ringraziamo Dio, molto molto molto limitata rispetto a quello che leggo e a quello che ho visto, avendo girato nei giorni scorsi anche un po' sulle spiagge italiane. Però qui ad Anacapri c'è grande fermento, c'è grande attesa per questa serata di gala, ci saranno ospiti di eccezione, oltre ai 7 finalisti condurrà come l'anno scorso Andrea Vianello insieme a un'attrice non solo bella ma anche molto molto brava, che si chiama Francesca Cici. il presidente della giuria è il grandissimo musicista, il maestro Gianfranco Reverberi, con lui la madrina Mariella Nava, ci saranno Franco Fassano, Bimbo Marrale di Mattia Bazar, Edoardo Vianello e qualcuno che mi dimentico. In giuria ci sarà anche Marino Bartoletti, che oltre ad essere un grosso esperto di sport è un grandissimo musicologo. E poi ci sarà una piccola finestra dedicata al ricordo di Lucio Dalla, che come Bruno Lauzi amava molto Anna Capri, in particolare il luogo del faro di Punta Carena. E quindi ci sarà la sua vocalist storica Iskra Menarini, che appunto dedicherà un ricordo a Dalla e si chiamerà Qui dove il mare luccica. Che meraviglia, Caruso insomma. Sì, Caruso, e poi farà, io mi auguro farà anche altri 4-5 pezzi, sarà un momento di grande emozione. È una grande vocalist. È una grande vocalist, è una persona, io la chiamo la principessa della voce e del sentimento. Certo, certo. Perché è anche una donna di grande intensità dal punto di vista umano. Mm-hmm. Beh, tu la conosci, quindi puoi dirla insieme. Sai, quegli artisti che non sono solamente figli così del luccichio, dello star system, è gente che è molto attenta al sociale, è la gente che piace a me, no? Bruno Lauzi era un uomo senza padroni, e questo è un fatto che è una delle cose che più mi piace dire di lui. E questo premio nasce, come tu sai, in sua memoria, nasce per un ricordo di un uomo, di un poeta, e oltre che di un grande artista, un grande cantatore, ma di un poeta e di un uomo. Certo. Un uomo che aveva questa testa che era un petalo di luna, no? Mm-hmm. Certo, certo. Va bene, Roberto, io lascerei lo spazio ai vari artisti, però prima certo. Voglio fare un regalo, cioè riproporre una cara amica che è venuta a trovarci dalla provincia di Salerno, se non sbaglio, da Napoli, dalla provincia di Salerno, insomma dalla Campania, e cioè Alfina Scorza, che tu conosci benissimo. È la vincitrice assoluta della quarta edizione, quella dell'anno scorso. Esatto, lo faccio. Un pezzo che è piaciuto moltissimo non solo al pubblico ma anche a tutti i giurati, e lei intorno a questo pezzo sta costruendo un nuovo lavoro, un nuovo CD che credo molto intenso. Quest'anno io l'ho invitata fuori concorso, okay. E credo che questa sua performance del 31 agosto sarà molto gradita al pubblico di Piazza San Nicola. Certo. Lei è bravissima, io ho avuto modo di conoscerla qui assieme a Maurizio, abbiamo intervistata, ha fatto una serata dal vivo splendida, la sua voce è stata una delle cose più belle veramente passate qui a Blu Radio Veneto, la gente, il pubblico nostro insomma, ci ha fatto veramente i complimenti per queste scelte. Alfina ha cantato oltre a Di Rosso e Sensualità anche altre canzoni in quella serata, ma poi casomai insomma se farà questo disco nuovo magari la rivedremo, la risentiremo meglio ancora qui a Blu Radio Veneto insomma. Va bene Roberto, io ti abbraccio forte in attesa di vederti di persona, ci vediamo fra 20 giorni. Ci vediamo venerdì 31 agosto, un abbraccio anche a Maurizio, ma in particolare il mio buon vento e buona musica a tutti i vostri radioascoltatori. Ti ringrazio, grazie. Grazie, grazie. Ciao, grazie. A prestissimo, ciao Maurizio. Ciao, grazie a te, ciao. Ciao Ago. Ciao Roberto, ci sentiamo. Siete forti. Grazie, grazie di cuore. Ciao, sei tu che sei forte, che dai l'anima per questo premio. Allora, la vincitrice del 2011 del premio Bruno Lauzi si chiama Alfina Scorza, Di Rosso e Sensualità. Silenziose questa notte breve per me, le lenzuola coprono passioni senza un perché, si agita nel vento una camicia blu, da quella finestra scivolando vien giù, gira il mondo languido te, segue il ritmo in questi istanti fatti per me, di una danza alcolica che porta con sé, capogiri e brividi davanti ad un te. Quanta poesia caduta qua e fuoco troverà. Va via la malinconia come la pioggia si asciugherà. Di rosso e sensualità pudica stanza si tingerà. giocano le mani, toccano fantasie, corpi complici e lucenti fluttuano su biancherie. Sconosciuto il senso di questa realtà, come onda di frantumi questa mi travolgerà. Quanta armonia caduta qua e fuoco troverà. Come la pioggia si asciugherà, il rosso e sensualità pudica stanza si tingerà. Va via la malinconia, come la pioggia si asciugherà, il rosso e sensualità pudica stanza si tinge. Sensi che cantano in questo momento, perfetto unisono si alza così, come diamanti fugaci nel tempo, noi fluenti già, siamo. Giorno fatto, giorno buio, tornato in me, passi si allontanano prendendo un caffè. Segui l'ombra in felicità, lascia quella porta col mio uomo che va. Disdetta malinconia, come una lama mi taglierà. Perduta sensualità, pareti grigia mi tingerà. Sensualità, parete grigia mi tingerà. Parete grigia mi tingerà. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccoci qua, Maurizio, tu ci sei? Sì, sì, stavo sentendo il pezzo. Quando è venuta a presentarlo qui da noi, si vedeva che aveva un'anima popolare, un grande pathos, e la versione è data una versione veramente era entusiasta quanto cantava, ti ricordi? Sì, sì, sì. Poi lei era felice. Trascinava proprio la band, il gruppo che la seguiva. Ha emozionato tantissimo anche la gente che la stava ascoltando, diceva che voce splendida. Poi anche la cover che ha fatto, ti ricordi, di Giuni Russo. Sì, esattamente, un pezzo di Giuni Russo. La sentiva anche quella, proprio nelle sue corde. Ma ritornando a questo pezzo che è stato molto apprezzato da Gianviero Reberberi, che era praticamente il presidente della giuria, sì, del premio, e ha proprio l'aspetto di musica popolare, proprio dentro, si vede che fa parte del core della nostra vocalista, della nostra artista che ha presentato qua questo pezzo. Certo. Allora, adesso abbiamo una carrellata, praticamente abbiamo questa, come dire, esclusiva che Roberto ci ha regalato appunto per questo premio, cioè faremo sentire le voci di tutti i finalisti che si contenderanno questo premio Bruno Lauzi 2012 qui a Blu Radio Veneto, telefonicamente è una cosa abbastanza veloce, poi magari li avremo di volta in volta dal vivo, magari con qualche loro concerto, quando faranno il disco intero, ma intanto insomma rompiamo il ghiaccio con un maschietto. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Ciao Alessandro Robles di Bari. Sì, esattamente, buonasera agli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Buonasera Alessandro. Mi avete ospitato. Grazie a te di aver collaborato e di aver partecipato. Senti Alessandro, com'è la tua emozione a pochi giorni dalla finale? Beh, l'emozione potete immaginare che è veramente grande, anche se conosco il premio perché per mia fortuna ci sono stato già una volta nel 2009 selezionato con un altro brano, però andare lì è sempre qualcosa di eccezionale e quindi molto coinvolgente. Mm-hmm. Tu hai portato un pezzo che si chiama Cercatori di Sassi. Sì. Com'è sì. Questo pezzo? Non ce lo raccontare, cioè vuol dire non cantarcelo perché non lo puoi, però insomma no. ci puoi dire qualcosa. Sì, no, certo, non lo posso spiegare rapidamente, certo. Come già dice il titolo, si tratta di un pezzo scritto cercando i sassi, veramente, in quanto io amo molto lasciarmi andare a questa ricerca estiva sulle spiagge, soprattutto magari della Grecia o del nostro, della nostra Puglia. però diciamo poi da lì parte una serie di riflessioni che vanno al di là poi dell'atto in se stesso, insomma, quindi qualcosa che coinvolge sicuramente la vita dell'artista, che è un po' sempre alla ricerca di qualcosa di particolare in un mare di sassi, diciamo, che sembrano tutti uguali, realmente poi non lo sono, se cerchi con occhio attento, insomma, lasciandoti andare un po' a uno stile che mette al centro la lentezza, no, della vita, cioè, cercando di recuperare anche un tempo che adesso, diciamo, un ritmo, no, nel tempo che adesso si è perduto completamente. Hai detto una frase giusta, lasciandoci andare alla lentezza della vita. Certo, sì. È perché in realtà l'artista vive con lentezza, in effetti. Giusto, hai detto, cioè, vive con lentezza, deve prendere le cose immediatamente, però non buttarle subito al momento, ma lentamente, certo. Come si dice, infatti, cadenzarle. Infatti il cercatore di sassi che fa? In realtà ne raccoglie qualcuna e poi dopo li rivede, no? Non è una scelta che fa in modo ponderato, ritornandoci, non soltanto scegliendo al momento e buttando via subito. Ma il musicista non butta via mai niente, cosa dici? Dice magari facendo una cosa e bruciandola al momento, come capita spesso oggi. Certo, oggi sì. I ritmi sono così affrettati, rapidi, che anche l'artista in sé ha difficoltà a inserirsi, che ha proprio un ritmo molto diverso, no? Sì. Certo, vero. Alessandro, tu alle spalle, musicalmente parlando, cosa hai? Beh, alle spalle ho tanto anonimato, diciamo, tanta passione per la scrittura in primis, ma anche soprattutto per la canzone. In realtà io nasco artista scrivendo versi poetici, scrivendo liriche che poi... ma trovando già la musica nelle liriche stesse, no? Nella poesia, e quindi diventando quasi naturalmente un autore di canzoni che poi amo interpretare personalmente, perché è chiaro che tutti scrivono principalmente per se stessi, no? Sì. Per cui poi è chiaro che se dopo si può anche scrivere per altri, però interpretare di persona, no? Le proprie emozioni è sempre il massimo. Sì, questo è vero. Tanti animato, tanti festival, tanti concorsi, live, cose diciamo fatte nel tempo. Sì, è chiaro che oggi come oggi non è facile, è certo, però la passione è quella che conta, e quindi non ti abbandona mai. Ma la dimensione live ti si addice, ti crea felicità a cantare davanti agli altri, una cosa bellissima, cantare davanti agli altri. Cantare davanti agli altri è sempre la cosa più è il massimo per un artista, secondo me. Soprattutto se le orecchie sono molto attente, ecco, per chi fa musica d'autore. Esatto, quindi contesti come il Premio Lauzi o certo dei teatri o insomma luoghi raccolti sono ideale. Certo. E Premio Lauzi è un premio importante che veicola certa musica italiana, no? Cosa dici? Certo, io dico è proprio quella piazza così piccola, così raccolta, ma veramente piena di significato, che un grande abbraccio a Bruno Lauzi, in effetti, più che un concorso, come sono tanti che servono solo a illudere o a bruciare i sogni degli artisti, è proprio un grande abbraccio a un grande artista come Bruno Lauzi, che è una persona di grande carica umana, soprattutto di grande umiltà, e che è poi quello che sappiamo, insomma, è sicuramente la caratteristica più importante per un artista. Alessandro, allora noi ti facciamo il nostro grande in bocca al lupo, dobbiamo dare lo spazio anche agli altri, come certo, tu sai, lupo. E facciamo ascoltare qualcosa del tuo passato, non di adesso, sì. Perché insomma non possiamo far ascoltare quello che partecipa al premio, e sì. Abbiamo scelto Quando il mondo agli occhi stanchi, che ha partecipato al Premio Lauzi 2009, ma anche a tanti altri festival, ha avuto diversi riconoscimenti. Ecco, così l'ascoltiamo anche qui, ci rendiamo conto qual è la tua musica e quello che è il mondo musicale, appunto, di Alessandro Robles. Perfetto, vi ringrazio e a presto. Alessandro, io ti abbraccio, in bocca al lupo, ci vediamo il 30 perché ci sarò anch'io. Perfetto, creepy lupo, il 31. Ci va bene, ciao Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao. Quando il mondo ha gli occhi stanchi. Thank you. quando il mondo ha gli occhi stanchi ancora fa di me la materia di un ricordo che non muore. Quando il tempo corre dolcemente fa di me un consiglio ripetuto sottovoce. Quando l'arbitro impazzito compie tutte le stagioni, è il destino che cammina, si dimentica di noi. Nelle tasche dell'impegno soprattutto c'è fatica per gli indugi ed i passi nuovi. Vivi per me l'ebbrezza dei tuoi voli, con la pazienza di schernire infine i propri errori, la solitudine di chi non scende a compromessi o di quei numeri che si riscoprono diversi. Ama per me il rumore che ti culla finché piove, il cigolio del legno che sorveglia le tue ore. Ad ogni porta chiuso aperta in questa via, per la tua vita che ovunque sia sarà la mia. Quando il mondo ha gli occhi stanchi ancora fa di me il sollievo che lambisce le tue mani. Quando il conto da pagare è alto fa di me un sostegno ai tuoi gracili salari. Quando l'arbitro confuso sceglie anonime stazioni, è il destino che si arresta, si fa beffa anche di noi. In quel grano seminato cura le motivazioni, dopo inverni di gelate soli. Vivi per me l'ebbrezza dei tuoi voli, con la pazienza di schernire infine i propri errori, la solitudine di chi non scende a compromessi o di quei numeri che si riscoprono diversi. Ama per me il rumore che ti culla finché piove, il cigolio del legno che sorveglia le tue ore, la sinfonia del vento che anima la via, la tua vita che comunque sarà mia. Ad ogni porta chiuso aperta in questa via, per la tua vita che ovunque sia sarà la mia. Alessandro Robles con Quando il mondo ha gli occhi stanchi, partecipanti alla finale del premio Bruno Lauzi, con la canzone però che si intitola Cercatori di Sassi. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, noi continuiamo questa carrellata di finalisti dalla Puglia con Alessandro. Ci spostiamo in Sicilia, una terra meravigliosa che io ho avuto modo di vedere l'anno scorso, non c'ero mai stato in tanti anni della mia esistenza, insomma sono rimasto a bocca aperta, ma soprattutto ci ho lasciato il cuore perché è una terra splendida e meravigliosa. Non sono stato dalle parti di Catania, ma ero verso Palermo, però comunque sempre in Sicilia. A Catania invece c'è una ragazza che si chiama Stefania Spina e che è in finale con un brano che parla proprio del mare, cioè Rogo di Mare. Ciao Stefania. Ciao ciao, ciao Agostino. Ben ritrovata, Grazie. Allora, un appunto veloce, la canzone è Rovo di More. Ah, scusami. E io c'ho questo titolo, forse mi sono sbagliato. Forse ho vediamo, sto vedendo la matrice. Sì, forse ho sbagliato io a copiare. Chiedo umilmente scusa, Stefania. Ma figurati, niente. Allora qui. A parte questa parentesi così. Insomma, benvenuta a Blu Radio Veneto innanzitutto. Grazie. E in bocca al lupo per la finale, grazie. Ovviamente. Come ti ci senti? Sono veramente felicissima e sorpresa, perché comunque, sai, quando fai una cosa del genere, la mandi con la speranza, ma poi rimani lì così ad attendere, magari, però non me l'aspettavo sinceramente quest'anno, perché ho avuto la fortuna l'anno scorso di essere selezionata, ovviamente non sono arrivata prima, però non finto, però sono veramente stata felicissima di conoscere questo premio, tutta la gente che veramente che ho conosciuto lì, è stata spettacolare, splendida, un'esperienza meravigliosa. Capri è meravigliosamente bella, cioè, sul serio, un'esperienza divina. Quindi quest'anno, sai, avevo la voglia magari di ripartecipare, quindi ho detto ma ok, ci proviamo, ho mandato un brano, fortunatamente di nuovo. Sono felicissima, davvero. Non te l'aspettavi, insomma? No, assolutamente no, ma perché comunque io già di mia indole sono così, molto coi piedi per terra. Quindi, sai, faccio le cose, non ci metto, cioè, gli metto tutta la passione del mondo nel farle, però poi rimango tranquilla, ho detto se va, va, se non va, fa niente, non è un problema. Certo. Invece mi è arrivata questa felicità meravigliosa, veramente, sono contentissima. Immagino. Sì, ma poi ti ripeto, mi sono trovata talmente bene l'anno scorso, veramente ho conosciuto persone stupende. Quest'anno le rivedi praticamente? Sì, veramente. Una cosa inaspettata, ovviamente sono contenta. Anche a te la stessa domanda che farò comunque a tutti. Alle spalle, musicalmente parlando, Stefania, chi sei? Sì. Cos'hai? Allora, praticamente per me questo è il mio primo progetto. Ho fatto così cover con una band rock quando ero un po' più piccolina, però questo è il mio primo progetto da cantautrice e quindi praticamente mi vedo da 2 anni circa che mi occupo, mi sto impegnando in questa cosa e niente, quindi sto scrivendo i testi, le melodie magari con la chitarra mi accompagno così e stiamo cercando di, insieme alla mia squadra, di dare forma a questo progetto. C'è un album, diciamo, che è in procinto di essere quasi finito. Aspettiamo qualcuno che magari se lo produce, perché no? Beh, potrebbe essere così, questo potrebbe essere un invito per chi ci sta ascoltando. Infatti. Ma sempre così, con tanta tranquillità nel cuore, no? Come va. Certo. Però c'è tanta voglia di finirla, questo lavoro, perché comunque una parte di me che secondo me prima o poi doveva uscire fuori, perché ho sempre avuto questa attitudine alla scrittura, anche alla musica. Quindi. Tu scrivi canzoni e anche la musica? Diciamo che la musica è una sorta, io quando scrivo la canzone, poi con la chitarra diciamo mi accompagno in maniera un po' elementare, però mi ci accompagno, la sto studiando già da un annetto, quindi diciamo che sviluppo la melodia. Quindi sviluppando la melodia poi ovviamente faccio sentire il mio lavoro al mio arrangiatore, produttore artistico e poi poi quello che devo dire. Insomma, lavoriamo insieme come una squadra. Hai detto che sviluppi, ciao, sono Maurizio, hai detto che sviluppi la melodia, sì, i testi arrivano dopo allora praticamente. Scusa? Il testo arriva dopo? Il testo praticamente arriva prima, dopo, insomma. Ah, non c'è una sequenza vera e propria. No, magari prendo la chitarra e mi vengono delle note, poi lì. Fai come Battisti, che scriveva prima la musica, poi Mogoli scriveva il testo? È così? Sì, infatti sì. Però per me non c'è una regola. Solitamente, almeno con Rovo di More, è successo che è nata prima il testo. È nato prima il testo perché mi sentivo molto ispirata quel giorno. E poi successivamente ho avuto un'idea, mi è venuta questa sorta di valzerino così, quindi... Ah, ho capito. In questo caso è successo così. Ma sono pochi accordi di chitarra, poi l'arrangiatore, poi il tuo, tuo, il tuo compagno musicale praticamente aumenta, allarga il pezzo, esatto. Praticamente è così. Esatto, sì, sì, sì, sì. Ho capito. Aggiungendo poi le varie linee degli altri strumenti. Bene. Pronto? Mi senti? Sì. Mi senti? Adesso un po' male. Un po' male? No, no. Noi ti sentiamo bene però. Scusa? Noi ti sentiamo bene. Meno male. Ecco. Ma tu mi parlavi di Palermo e tutte le zone, io praticamente sono sulle Madonie in questo momento. Ah. Quindi c'è un po'... Ti saluta anche Gil che è qui vicino. Ti saluti. Ciao, ciao. Stefania Spina. Ciao Stefania, scusami. Ciao. Io sono Gilles, sono appena arrivato qui con grazie a Maurizio, grazie a Agostino intanto e buonasera a tutti. Stefania, scusami, quanti anni hai? 32. Sai una cosa positiva che sento, perché sì, si ascolta, cioè stiamo parlando anche tanto di musica, magari si va a vedere anche un attimino altre sfumature. Mi è piaciuta una cosa che tu hai detto, che devi uscire la parte migliore di me. E questa è una cosa veramente positiva, fa parte dell'autostima di una persona. Questo è veramente bello. Sì, grazie. Sì, ma è una cosa che è così. Penso che l'arte in genere abbia questo ruolo, no? Nella società, anche nell'animo umano. Fortunatamente ciò che esce dall'arte che abbiamo dentro, in qualsiasi maniera esca, no? Sotto forma di un muretto di cinta fatto dal muratore, o una canzone, o una coreografia di danza, penso sia comunque una grande soddisfazione per chi lo fa, no? E fa fondamentalmente forse il lato più bello che abbiamo dentro. Certo. E si cura un pochettino, no? Stefania, un po'. Non possiamo far sentire la canzone che partecipa al festival, al premio, meglio dire, di Bruno Lauzi, però facciamo ascoltare qualcosa di tuo comunque, questa sì. Fumo nel blu. Questa ci dici due parole? Scusami? Ci dici due parole su questa canzone? Sì, allora, questa canzone è nata prima come come testo, quindi effettivamente sono due canzoni che nascono così, quindi forse io agisco più spesso così, prima scrivo e poi... E questa canzone è nata così, cioè avevo comunque molto autobiografica, quindi c'era proprio un periodo particolare... E l'ho voluta dedicare fondamentalmente a questa figura che mi era vicina in quel momento, e certo. Ho scritto questa cosa. Allora, noi Stefania e io ti rivedrò a fine mese, insomma, lì a Capri, sì. Così ci conosceremo di persona. Così ci conosceremo anche di persona. Però intanto ti faccio il mio in bocca al lupo. Grazie. Anche da parte di tutta Blu Radio Veneto, ovviamente. Io ringrazio voi di avermi dato questa opportunità stasera e ringrazio anche tutta l'organizzazione del premio Bruno Lauzi, Anna Capri, Roberto Zanani, veramente. Roberto è un mito. Veramente una persona che la conosco poco, però per quello che mi ha trasmesso, una bellissima persona davvero. Certo. Quindi sono felicissima di vedervi prestissimo, speriamo bene. Sì, sì, sì. L'importante è che sei serena, insomma. Sì, sì, ma ecco. Sì, dai, sì, è una cosa meravigliosa. Allora, ricordiamo la canzone che presenti al premio. Sì, Rogo di More. Rogo di More, ecco. Sì. Così non sbaglio. Va bene. Stefania, un abbraccio forte, grande, e ci si vede fra una ventina di giorni, va bene? D'accordo, grazie mille, a presto. Fumo nel blu. E vado a spasso con i miei pensieri, un po' di più rispetto a ieri. Mi rendo conto di quanto il tuo sorriso mi abbia condotta dritta in paradiso. Ancora notte, no, è già mattino. So che anche oggi tu mi sarai vicino. Ma i sogni miei non sono come i tuoi, vanno lontano come fumo nel blu. Certo non posso decidere. è già la strada del destino. Quanti miraggi lungo il suo cammino. E in quel deserto i raggi dell'amore. E poi al riparo in un'oasi di dolore. E torna a casa, ho fatto un po' di spesa. Ma che sorpresa, c'è la luce accesa. Ma i sogni miei non sono come i tuoi, vanno lontano come fumo nel blu. Certo non posso decidere per te, ma non ce la faccio più a convincermi che questa era la risata di Stefania Spina in questo pezzo che si chiama Fumo nel blu, ma lei sarà presente al premio Bruno Lauzi con Rogo di More. Blu Radio Sera. Maurizio Igil, voi lo sapete che questi giorni c'è il Palio a Siena? Sì, certo. Lì sì, si corre, io non ci sono mai stato a vedere il Palio di Siena. Purtroppo io faccio parte anche di questa categoria. Ah, sì? Non ho visto ancora il Palio di Siena, purtroppo. Io ci metterei, farei una domanda, una richiesta magari a Federica Rossi, se magari ci invita lì a vedere il Palio. Ciao Federica. Ciao, buonasera a tutti. Ciao. Toscana puro sangue, insomma. Sì, sono senese. Sì. Senese puro sangue. Sì, davvero. Allora, come vanno questi preparativi del Palio? Senti, ti dico, vanno, l'unica cosa è che la mia contrada non corre, quindi diciamo lo guardiamo un attimo con occhi un po' diversi, però il Palio comunque, anche se non corri, l'atmosfera, l'emozione la vivi uguale. Ma come mai? Come mai non corre Federica? Non siamo stati estratti a sorte. Vedi. E quindi va bene, poi il prossimo anno correremo d'obbligo ad agosto, però per ora ecco, lo dobbiamo diciamo guardare. Ma fai il tifo per qualche contrada? Secondo me no. Sì, sì. Come? Fai il tifo per altre contrade? No, no, ma lì è impossibile non fare il tifo. No, ma sì, non proprio. Diciamo non proprio. Ora... C'è solo uno sguardo da distacco, insomma, praticamente. Come? Un po' di distacco c'hai. Sì, un po' sì. Diciamo che però correndo la nemica della mia contrada, speriamo chiaramente ne vincano altre, non che non vinca la nemica. Quindi sì, diciamo che il tifo ora forse è un po' d'obbligo, ecco, per altre contrade. Certo. Federica, voi avete un'altra cosa magnifica, se non sbaglio, lì a Siena, tra le tante cose. Avete dei paesaggi e delle strade straordinarie da fare in moto. No, è vero. Bellissimo. Concordo, no? Ci sono dei panorami che poi forse quando ci abiti, comunque ci vivi, forse ci soffermi anche poco a guardarli. Però effettivamente è davvero una bella città e anche proprio tutti gli intorni sono stupendi, certo. Confermo. Allora, emozionalmente Federica, come ci avvicini al premio Bruno Lauzi? Mi avvicino con tanta emozione, anche perché è la prima volta che vi partecipo e onestamente non me l'aspettavo, perché comunque è davvero un grande concorso. Quindi quando comunque sono andata a spedire il tutto, e per questo ringrazio il mio babbo perché ha trovato lui il concorso, l'ha visto lui, quindi niente, mi disse dai, ma perché spedisci un tuo pezzo, che volessi, tanto nel senso tal più non ti chiamano, cioè non ci sono problemi, fallo. E alla fine infatti poi ho mandato tutto e inaspettatamente mi hanno richiamato, ormai non ci speravo più, però visto comunque passa del tempo e tu dici ma chissà. E chissà, poi invece è arrivata la chiamata, la bellissima chiamata, sì, davvero. E che ti ha fatto sedere? Come? Ti ha fatto sedere? Sì, subito. Sì, ero al mare, ero sdraiata. Ah, ecco. Sì, ero in un ferry, ero sdraiata sull'asciugamano in spiaggia, è arrivata la notizia, sono subito saltata da dove ero praticamente, perché certo. La notizia è stata davvero bella. Certo. Ecco, quando davvero le cose è vero che accadono sempre quando meno te le aspetti. Giusto. E sono ancora più belle così, giusto? Sì, davvero. Pensieri di te si chiama la canzone, sì, che porti al premio. Cosa narra questa canzone? Questa canzone narra, diciamo, parla di, come posso spiegare, di una delusione, però diciamo più che altro, ecco, del credere tanto in un'unione, ma che può essere di qualunque genere. Uh-huh. E poi però arrivi a un punto, ti svegli e capisci che quest'unione che pensavi di poter aver provato, di provare, probabilmente non era come poteva sembrare. E da lì però, ecco, come tutti i miei pezzi, diciamo, per me i miei pezzi sono anche un po' una cura, perché quando mi possono accadere cose belle o brutte, lo scrivere per me lo faccio da quando sono piccina e mi è sempre stato come comunque un mio sfogo, e quindi quando però scrivo alla fine il mio pezzo in fondo deve avere sempre un lieto fine, cioè c'è sempre comunque è sempre un modo per poi riuscire ad andare avanti col finale. Con i miei pezzi non riesco a finirli o irrisolti o comunque in modo negativo, che perché credo nella vita non ci si deve mai arrendere in nessun campo, non è facile, però uno ci deve sempre provare. E quindi diciamo che questo pezzo, ecco, diciamo, è nato da una delusione, che però poi alla fine anche dalle delusioni nascono delle cose importanti, come ad esempio questa. Certo. Quindi ringrazio, ecco. Perso un tram e prendi il successivo, giusto? Sì, infatti, io non riesco a pensarla. Questa parola non esiste. Insomma, pensiamo positivo, via. Certo. Sì. Sentire parlare questi ragazzi di... Quanti anni hai, Federica, tu? Io ne ho finiti 30, ora il 25 luglio scorso. Oh. E quindi hai già anche alle spalle una bella carriera musicale. Sì, ho iniziato, diciamo, a approcciarmi con le scuole e tutto a 18 anni, però ecco, sono stati gli ultimi 5-6 anni quelli davvero importanti, perché ho conosciuto, insomma, sono andata ad una scuola qui a Siena, la Diapason, che comunque mi ha fatto conoscere degli insegnanti davvero bravi e validi, e quindi sono 6 anni che davvero ho avuto insegnanti bravi che mi hanno fatto crescere. Che poi vabbè, tuttora continuo a studiare, perché credo non ci si debba mai fermare anche nello studio. Hai qualche progetto in atto? Stiamo da un po' di mesi, abbiamo messo su un gruppo, uh-huh, il Slalom, che facciamo musica, diciamo, dance, musica dagli anni 80, rivisitata, riprendiamo anche brani tipo italiani, da Pufo, da eccetera, insomma vari pezzi, e li rifacciamo anche in versione ska, comunque anche pezzi bello, anni 80 che mi piacciono molto, le riproponiamo in versione dance. E speriamo che anche in questo inverno, piano piano, abbiamo fatto il promo da poter dare, poter divulgare, e speriamo piano piano di andare avanti anche con questo progetto. Certo. Va bene, allora la canzone che porti, appunto, dicevamo, al Bruno Lauzi è Pensieri di te, però ci propone insomma adesso una canzone che si chiama Qualcosa di speciale. Sì. Questa è uno dei primi brani che ho scritto praticamente. E anche tu molto legata. Tu scrivi sia musica che testi? Sì, per alcuni mi vengono praticamente insieme, anche nonostante ora uno strumento non lo suono, però la melodia mi nasce insieme alle parole. Mm-hmm. Poi ci sta, delle volte mi capita che anche mi esca fuori tutta la melodia e poi piano piano nascono pure dopo le parole, però ecco, spesso e volentieri nascono entrambe insieme. Senti Federica, sono Gilles, È difficile il percorso di un cantante? Eh sì, non è facile, no, perché io posso, ecco, dire che in questi anni ho fatto tanti sacrifici, uno può aver avuto anche, cioè, avuto anche delle delusioni, ma come tutti, e quindi ecco, arrivati a questo punto effettivamente forse dice, forse tutti gli sforzi che uno ha fatto in questi anni probabilmente sono davvero serviti a qualcosa, lo studio eccetera, che comunque poi lavoro anche, cioè lavoro anche con i bambini, quindi ho dovuto sempre conciliare, certo, un sacco di cose insieme, certo. Poi io scrivo anche per i bambini, ho voluto portare anche la musica nel lavoro. Insomma, ci si prova, ecco, diciamo, anche se non è facile, sì, è vero. Agostina. Sì, allora, Federica, noi ti salutiamo perché dobbiamo lasciare spazio anche agli altri, ovviamente, certo, insomma, per non insomma, dare spazio, il giusto, certo, spazio, certo, per tutti, insomma, che mi sembra anche giusto. Noi ci conosceremo, lo dico anche a te, a fine mese, ci sarò anche io di persona. Bene, bene. Ecco, così ci vediamo là. Nel frattempo ne approfitto per farti il mio e il nostro più caro in bocca al lupo. Crepi, crepi, crepi, grazie. Allora ci vediamo il 31. Sì, sì, io arrivo il 31. Grazie mille. Ci vediamo il 31 lì al premio e chissà, insomma, ti auguro anche a te che sia una splendida serata. Lo sarà, indipendentemente da come vada, immagino che sarà una bella serata sicuramente. Certo, beh, insomma, poi abbiamo scoperto, siamo tutti d'accordo che Roberto è un grande, grande personaggio. Ah, è vero, io ora l'ho conosciuto solo ora tramite appunto telefono, uh-huh, ora non, ancora non l'ho conosciuto di persona, però già, insomma, averci parlato e tutto, mi sembra veramente una persona molto in gamba. Brava davvero, certo. Va bene, buon palio anche se non partecipate. Un saluto a tutti i radioascoltatori della vostra radio e un grazie a tutti. E allora ci ascoltiamo dal passato musicale tra virgolette, insomma, sì, di Federica Rossi, ci ascoltiamo questa canzone che si chiama Qualcosa di Speciale. Ciao Federica. Grazie, ciao a tutti, grazie, buona serata. Ciao Federica, ciao. Ti sento arrivare, ti sento sognare, ti vedo così, ti sento dentro di me. Lascia che io veda qualcosa di speciale, lascia che io senta di poter sognare, lascia che il silenzio ci unisca ancora un po'. Prendiamoci per mano, lascia il vecchio mondo, partiamo via lontano, è proprio così. Ti sento arrivare, ti sento sognare, ti vedo così, ti sento dentro di me, un brivido sulla pelle. Poi tutto questo finirà, sorvoliamo. sempre dentro di me. Federica Rossi con Qualcosa di speciale, lei però sarà finale con il pezzo che si intitola Pensieri di te. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Adesso andiamo in una città che è vicinissima a Capri, loro non faranno tanta fatica ad arrivare, scommetto, basta solo che prendono gli scaffold, ci saranno. Sono da Napoli, giusto Vincenzo, o sbaglio? Sì, ciao, buonasera Costino, buonasera a tutti. Ciao. Siamo da Vincenzo. Napoli, in realtà provincia, un pochino sopra Napoli, ma insomma Napoli alla fine. Napoli. Così facciamo contento anche Maurizio che ama le band, ama il gruppo. Voi siete Diversamente Rossi? Sì, noi siamo i Diversamente Rossi e siamo una formazione di 4 persone, quindi chitarra voce, chitarra, basso e batteria. Saluto gli altri ragazzi che ci stanno ascoltando. Classica formazione allora, Vincenzo. Sì, forse ci manca una tastiera, però è una tastiera, sì, però insomma la tastiera si può sostituire. Si può sostituire la tastiera senza nessun problema. Sì, penso che riusciamo a non fare sentire troppo la mancanza. Certo, certo. Ci proviamo almeno. Voi quest'anno è un anno di emozioni fortissime perché siete in finale, siete stati partecipi a tantissimi premi, insomma. Sì, quest'anno abbiamo partecipato, siamo stati a luglio al Bindi e a Genova, è stata una bellissima esperienza. E poi anche diciamo l'anno scorso a settembre poi diciamo suoneremo in un perfetto ambiente, quindi ci saranno anche gruppi noti eccetera, quindi insomma sicuramente un anno di soddisfazione. Anche l'anno scorso abbiamo girato un po' di concorsi, insomma, quindi un po' di esperienza ce la stiamo facendo in questo senso. E quello che conta poi chiaramente, al di là del lato artistico, poi l'aspetto umano è importante, quindi è sempre fonte di grandi emozioni da questo punto di vista. Al Bindi, Vincenzo, cosa avete presentato? Un pezzo vostro o una cover di Bindi? No, al Bindi praticamente era prevista diciamo la presentazione di un brano di Bindi che veniva scelto diciamo dall'organizzazione. Dall'organizzazione. E voi cosa avete presentato di Bindi? Di Bindi abbiamo presentato Riviera, abbiamo fatto un arrangiamento un po' bossa di questo brano, bene. E poi un brano nostro si chiama Vivo Così, era in due serate, quindi nella prima serata si faceva l'interpretazione del brano di Bindi e poi la successiva diciamo il pezzo brano, vostro diciamo, praticamente. Inedito, sì, mm-hmm. Sì. E quindi tra l'altro devo dire, io a Capri non ci sono mai stato, pur essendo di Napoli, quindi sarà un'occasione per me. E sì che ce l'hai comodo lì, sono sì, ma in realtà poi ho scoperto che diciamo che non è una cosa così inusuale, molti amici di qua, insomma anche napoletani, non sono stati a Capri, quindi magari hanno viaggiato anche per il mondo, cioè. Quindi niente, noi siamo comunque emozionati, ogni volta per noi è sempre diciamo una conferma il fatto che giurie di persone come dire, attente a quello che viene loro proposto, insomma ci scelgano, per noi è un motivo di orgoglio e cerchiamo umilmente come dire, di essere poi all'altezza dei palchi importanti che ci ospitano. Bene, bene, benissimo. Come vi siete avvicinati al premio? Con quale spirito da band praticamente? Sì, con lo spirito da band, una cosa che ripeto è spesso è questa, che in realtà diciamo, per noi quello che noi interessa soprattutto è la possibilità di suonare, di farci ascoltare laddove ci sia una volontà di all'ascolto, una propensione all'ascolto. Quindi il concetto di gara, poi noi molto spesso entriamo in amicizia con gli altri partecipanti, quindi in realtà il concetto di gara c'è, insomma alla fine è anche divertente per certi versi, poi sicuramente il lato umano è quello che conta per noi, diciamo la partecipazione è la cosa più importante, quindi la possibilità di stare in mezzo agli altri, di proporre le cose, ascoltare gli altri, che insomma ci fa piacere se gli altri ci ascoltano, questo è lo spirito che ci muove da sempre. Io ne approfitto, Vincenzo, se mi permetti di salutare anche Santo, perché io ho sempre parlato con lui da tanti mesi a questa parte che ci sentiamo. Adesso era un periodo sinceramente che non avevamo contatti, però comunque abbiamo avuto diversi contatti via chat, ovviamente, insomma. E quindi finalmente salutiamo Santo e Gaetano, anche Ciro, certo, che sono gli altri membri della band. Certo, e finalmente vi conosco, insomma, di persona, insomma, a fine mese. Sì, infatti anche noi, insomma, siamo ansiosi di venire lì e conoscere un po' tutti, chiaramente conoscere te, insomma, che sei stato anche così gentile, insomma, da ospitarci in questa trasmissione. Niente, siamo molto contenti, non vediamo l'ora di essere lì. E vedrai che poi verrai che su qui a Padova a fare qualcosa di bello dal vivo, Grazie, ci speriamo, non vediamo l'ora di portare un po' di musica napoletana, anche se cantiamo in italiano, cioè, quindi saremo compresi abbastanza, penso, anche a Padova. Abbiamo già avuto napoletani comunque, sai? Sì, che cantavano in napoletano. Ah sì, anche, no, in dialetto cos'era? Quello di Alfina, Maurizio, te lo ricordi? Era un dialetto particolare da Salerno, che però non era proprio salernitano, era qualcosa in più, insomma, adesso non mi ricordo. So che sì, era... non era proprio salernitano. Era un dialetto particolare che non mi ricordo. Adesso non ricordo assolutamente, però cantava in quella... avevano fatto anche delle ricerche prima per eseguire certi pezzi, quindi non era una cosa molto semplice. Certo. Vincenzo, dimmi. Questo pezzo Non c'è luce, di cosa parla? Non c'è luce, sì. Ma è, diciamo, è una canzone d'amore per certi versi, è, diciamo, il racconto di una storia in qualche modo che sta finendo. E quello che noi cerchiamo di fare poi nelle canzoni è di descrivere il più possibile gli stati emotivi in una maniera, come dire, possibilmente non banale, noi è quello che proviamo a fare, anche perché poi penso, in realtà, le sensazioni e le emozioni che ciascuno di noi prova, cantautore o meno, voglio dire, poi alla fine sono sempre non banali, sono sempre diverse. Quello che bisogna fare attenzione è cercare, secondo me, di cogliere diciamo la diversità, cogliere un po' gli aspetti peculiari e tirarli fuori, insomma. È una canzone d'amore alla fine, quindi, come ce ne sono tante bellissime, diciamo, nel panorama musicale italiano e non, però penso che d'amore non si finisce mai di scrivere, di cantare e di soffrire, di gioire pure. Senti Vincenzo, ciao, sono Gilles, una domanda veloce, una curiosità. In un periodo, in anni in cui di gruppi se ne vedono in pratica sempre meno, come fa? Cioè, che scelta spinge a formare un gruppo e non una carriera da solista? Da solista. No, questa è una domanda interessante. Io in realtà qualche anno fa avevo iniziato, diciamo, i primi passi da solista, poi mi ero fermato. E Santo, che era un amico che suonava in altre formazioni, diciamo, in qualche modo è stato un po' il primo anello di questa aggregazione che si è formata intorno a questo progetto. E a me l'idea di fare di fare qualcosa insieme mi è piaciuta tantissimo, perché poi alla fine, insomma, è un viaggio, se il viaggio lo si condivide è più bello sicuramente, perché poi alla fine penso che non è tanto la destinazione dove si arriva, ma è lo stare insieme, ci credo molto. Poi nella pratica significa anche portare idee, emozioni diverse, insomma, e affrontare insieme le cose, anche i momenti belli e i momenti brutti, credo che, insomma, sia una forza in più, secondo me. Certo. E invece la canzone che facciamo ascoltare adesso, cioè Vivo Così? Vivo Così è, tra l'altro, la canzone che abbiamo presentato al Bindi. Anche questa è una canzone, sì, d'amore, quindi non ne abbiamo solo queste. Sì, certo. Diciamo, è una ballad abbastanza delicata, credo. Uh-huh. E, insomma, è tra le nostre canzioni preferite anche questa qui. Adesso. Poi ne abbiamo altre anche rocchettare, voglio dire, una canzone anche con chitarre elettriche. Mi pare giusto, mi pare giusto che sia così. Ci tieni, Vincenzo, ci tieni. Ci tengo a dirlo, ci abbiamo anche i distorsori, insomma, anche con spese notevoli, noi ci dotiamo di strumenti. lo dimostrerete qui, insomma, quando verrete a fare live, giusto? sì, no, quando avremo lì con Non c'è luce penso che suoneremo con due chitarre classiche, quindi ecco, non ci saranno distorsori, sì, però magari sì, ce la portiamo, facciamo un, diciamo, un offline elettrico, lo possiamo fare. Ascolta, devo dirti che Vincenzo dice che sei perfetto, eh? Cioè, scusa, Salvo Santo dice che sei perfetto, Vincenzo. Me l'ha scritto in privato qui adesso, insomma. Sì, tra l'altro mi diceva Sandro, dice, stasera ti fai la prima chiacchierata da single, perché per non c'è, diciamo, con me a condividere il microfono, quindi. Certo. Va bene, Vincenzo, lasciamo lo spazio anche agli altri, ovviamente, insomma, io ti faccio, certo, come a te, come insomma a tutti, anche da parte di Blu Radio Veneto, i nostri migliori in bocca al lupo, auguri di bocca al lupo per la finale. Crepi il lupo. Crepi il lupo, e io ringrazio tutti chi ci ascolta, e ringrazio voi in studio, grazie a te Agostino e Blu Radio Veneto. Grazie mille. E noi ci vediamo il 31. Perfetto. Ciao. Salutami tanto Santo e tutta la band, va bene? Senz'altro. Grazie mille. Ciao Vincenzo. Ciao, ciao Vincenzo, ciao. Ciao. Fossi ancora lì, fra le tue dita, fossi anch'io così, belle parole, dritte in fila, vorrei per me la pazienza e il tempo e l'amore che c'è nel tuo sguardo più attento, ma è un libro banale. Lasci a metà e allo scaffale il mio cuore va. Vivo così come viene, non c'è speranza che tenga se non la visione di te. Vivo così senza niente, perché niente è quello che resta se non l'assenza di te. Lasci mai, chiami prigione, svanisco sempre più in un minuto, senza ragione. Vorrei per me una colpa e un perdono, tu neanche ricordi il mio nome, chi sono, ma le tue parole poi ricorderai tanto amore. Mai. Vivo così senza attese, perché la tua sola certezza è di avere occhi duri per me. Vivo così senza estate, perché non c'è un giorno di sole se non vissuto con te. Poi ricorderai tanto amore, non l'ho avuto mai. Vivo così senza attese, perché la tua sola certezza è di avere occhi duri per me. Vivo così senza estate, perché non c'è un giorno di sole se non vissuto con te. Vedo che muovi la testa, Maurizio, vero? Ti piace questa canzone? No, stavo parlando con Gilles, ah, e Gilles, ecco, giustamente ha fatto una considerazione molto valida. L'arrangiamento è molto positivo, suonano bene, certo, sono bravi, anche se secondo me qualche velina alla Pino Daniele, nel senso positivo del termine, qualche andazzo, qualche movimento alla Pino Daniele arriva, ma loro sono di Napoli, certo, e poi ci questo comunque, questa comunque è una registrazione dal vivo, mi fa sapere Santo, e quindi è un'esclusiva, insomma, che abbiamo fatto sentire. Ottimo, meglio sono ancora bravi, e quando verranno, certo, qua a presentare il disco, i loro pezzi sicuramente daranno molta grinta, non sarà solamente solo un pezzo acustico, ma ci saranno le chitarre, certo, come, certo, ha detto Vincenzo. Come ha detto Vincenzo. Comunque questa era canzone, si chiamava Vivo Così, loro comunque al Bruno Lauzi presentano una canzone dal titolo Non c'è luce. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Adesso invece andiamo a Paola in provincia di Cosenza con una ragazza simpaticissima, tra l'altro ho saputo che è fresca sposa, quindi gli facciamo gli auguri. Ciao Fabiana Dota. Ciao ragazzi, grazie anche per gli auguri, grazie mille. Come va? Benissimo, benissimo, tutto, noi, bene. Tutto bene, ma tu come sei? Sei più emozionata per il matrimonio o per il premio? Guarda, è un purpurì di emozioni, immagino. Sono emozioni che arrivano da tutte le parti, il matrimonio, la notizia dell'Auzi, insomma, è un bel periodo, diciamo, va, è veramente un bel periodo. Allora, come ti avvicini a questo premio, Fabiana? Guarda, con molta serenità. Io voglio dire, io scrivo musica perché è la mia passione, perché mi emoziona. Ho mandato questo pezzo perché sono delle vie da seguire, soprattutto per chi vuole vivere di musica, ed è quello che faccio io vivo di questo, ma con estrema serenità. Io il mio obiettivo è quello di far sapere agli altri quello che sento io e di divulgarlo, insomma, ed è questa la motivazione, questo è il modo in cui mi avvicino al premio. Cioè, come l'hai ricevuta questa notizia, insomma? Quanto tempo è che ti hanno... da quanto, guarda, tempo? Guarda, sarà una settimana, una decina di giorni, e ho avuto una telefonata in cui mi dicevano che ero in finale. E ovviamente la gioia la puoi immaginare, anche perché quando fai queste cose, sì, tu mandi il pezzo, dici chissà, e poi quando meno ti aspetti ti arriva la notizia, insomma. È bello, è assolutamente bello. Mi ha chiamato Roberto Gianani, che è un personaggio simpaticissimo, in gambissima, e mi ha dato questa notiziona fantastica. In questo siete tutti d'accordo, vedo, insomma. Assolutamente, assolutamente. Certo. Questa canzone, allora, Un attimo perfetto? Un attimo perfetto è nata un pomeriggio qualche tempo fa, ero seduta al pianoforte, ho cominciato a suonicchiare un giro di accordi e poi mi sono venute in mente delle parole che stavano molto bene su questo giro, era molto ritmato, molto, molto rimato anche, e piano piano è uscita fuori questa canzone, che parla appunto dell'attimo perfetto, che per me non è altro che l'alchimia che si crea fra due persone quando arriva quell'istante in cui capisci che il desiderio dell'altro è precisamente il tuo e devi necessariamente andare avanti fino in fondo, continuare a rispondere a questa chiamata, anche se sai che al 90% te ne pentirai un attimo dopo, ma quell'attimo è perfetto e non puoi non viverlo. Fabiana, esiste un attimo perfetto per scrivere un pezzo? Guarda, io mi sono sempre trovata a scrivere in momenti magari un po' difficili, momenti di malinconia. Trovo, perché io penso che la musica, essendo qualcosa di viscerale, di parte da dentro, è sentimento, e quindi nei momenti in cui la nostra anima magari è un po' sofferente o al contrario ha una grande gioia, riesce ad esprimere meglio in musica quello che sente. Quindi è uno spezzo delle sensazioni, uno specchio totale, sì, delle sensazioni umane, insomma, delle almeno tue sensazioni. Questo è per me, sì, questo assolutamente. Ma penso è che per sia me. Anche per tutti, secondo me. Lo cosa credo dici, anch'io, Gilles? Lo credo anch'io. Certo. E hai partecipato anche tu l'anno scorso? Sì, ho partecipato con un altro pezzo che che si chiama Leggera, ho partecipato l'anno scorso ed è stato molto emozionante perché ovviamente tra l'altro era la prima volta, era anche la prima volta su un palco così importante e quindi è stato molto bello, molto emozionante, anche insomma se non mi sono classificata fra i vincitori, ma per me era veramente già una vittoria essere arrivata fino a lì perché era la prima volta che mi confrontavo con un mio pezzo. Senti Fabiana, ho sentito prima che dicevi che te suoni, hai composto questa canzone al piano. Sì. È uno strumento un po' particolare il piano. Tu componi sempre le tue canzoni mettendoti al piano o prima fai i testi, no, poi lo abbini? No, io suonicchio la chitarra e suonicchio il pianoforte. E a seconda del momento, a seconda del piano, di solito lo utilizzo nei momenti più malinconici, anche se la canzone che poi è venuta fuori quest'anno non lo è affatto, mentre la chitarra la utilizzo quando ho qualcosa di più allegro da comunicare. E poi mi lascio aiutare dal mio arrangiatore, che colgo l'occasione per ringraziare e salutare, che è Giuseppe Cosentino, e aggiustiamo il pezzo, lo tiriamo fuori nella sua versione ultima. Abbiamo modo di apprezzarlo adesso, il tuo arrangiatore, se non sbaglio, cioè nella canzone che c'hai... Sì, perché è anche il pianista che suona nel pezzo. Che magari ci sta ascoltando. Sicuramente, lo saluto. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Il pezzo si chiama Leggera, tra poco lo ascoltiamo. Certo. Fabiana, come ha detto Agostino prima, sei una ragazza di una vitalità... estrema proprio, ti si sente dalla voce, grazie. Allegrissima, positiva, anche le altre ragazze che abbiamo sentito prima, però ognuno ha una propria caratteristica, te hai questa certo. Proprio particolare. Grazie. Dai proprio felicità nella voce, bravissima. Che bel complimento, mi fate contenta stasera, sono felice, grazie. Fabiana, un'ultima cosa, musicalmente alle spalle cosa c'hai tu? Allora, diciamo che ho tanta musica nel cuore da sin da piccola ed è una cosa che mi è stata tramandata geneticamente perché mio papà, che purtroppo non c'è più, suonava e cantava e mi ha tramandato questa cosa. Quindi sin da piccolina sono stata abituata alla musica, a cantare e piano piano ovviamente ho coltivato sempre questa passione. Mm-hmm. Insegno canto, ho partecipato a diverse manifestazioni musicali, ho fatto anche qualcosina in televisione e adesso sto lavorando a questo progetto da un annetto, sperando di concluderlo il più presto possibile ed uscire quindi con un mio lavoro discografico. Certo, e poi ce lo farai avere, giusto? Assolutamente, assolutamente sì. Va bene Fabiana, chiudiamo anche con te per lasciare lo spazio anche agli altri due che mancano. Certo. E anche per te lo stesso discorso, ci vediamo il 31. E in bocca al lupo per il pezzo e per la finale, insomma. Credi, grazie mille. Allora al 31. Ok, Fabiana, ciao ragazzi. Ci ascoltiamo la tua voce in questo pezzo registrato dal vivo, se non sbaglio, giusto? Leggera? Sì. Sì. Con Cosentino alle tastiere, la tua voce. Al pianoforte, sì. E ci sentiamo e ci vediamo presto, va bene? D'accordo, ciao ragazzi. Ciao Fabiana. Ciao Fabiana. Ciao. Di più ancora, favole che corrono le nuvole dorate del cielo, pioggia lieve. E più leggera, come una farfalla schiude le sue ali a primavera, io volerò. Senza pensare, senza preoccuparmi di dove andare. Senza fermarmi, senza riposarmi, senza cadere. azzurro mare. Sciolgo i miei capelli, il vento li accarezza a mano leggera. E sognare, sentire allora di esser viva, di sapere cosa fare, di ritornare a respirare. Mi risveglierò in un altro colore e combatterò come una donna. Ma leggera mi sentirò come ali di gabbiano, mi schiuderò, volerò fra i miei pensieri e sorriderò di te che cieco non capirai, ma volerò. Tutti quegli errori che mi affogano nel loro rimpianto. Ho ancora tempo. Ovunque vada, tu saprai che i miei sorrisi si apriranno come una rosa. Sarò sposa, mi risveglierò in un sogno. Ecco la parola finale, leggera. Leggera è anche il titolo di questa canzone, cantata da Fabiana Dota. Al piano, avete sentito, c'era Cosentino, il suo arrangiatore, ma lei comunque sarà presente nella finale del premio Bruno Lauzi il 31 di agosto con la canzone che si intitola Un attimo perfetto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E adesso invece andiamo a Roma, con una band. Maurizio, sarai contento? Quindi decisamente, ma io sono contento anche i solisti, proprio con le band tu hai un, rock, una poi. Certa predisposizione. Andrea, ci sei? Eccoci, sì, ciao, buonasera a tutti. Ciao. Buonasera Andrea. Andrea Paoni, in arte, cos'è? Sei il frontman del gruppo I Just? Sì, diciamo di sì. Tu sei cantante? Sì. No, siamo in realtà tutti e quattro cantanti, noi siamo un gruppo vocale. Ah, un gruppo vocale, benissimo, ottimo, sì. Ottimo. Come mai un gruppo vocale? Non è che ce ne siano molti gruppi vocali in Italia, no, in realtà... Come mai hai scelto, Andrea, di fare questa carriera? Pronto, ma mi senti? È nato, sì, ci sono. Vai. È nato, diciamo, per gioco, alla fine le cose più belle nascono un po' tutte così, Siamo quattro cantanti che andiamo dallo stesso insegnante di canto e abbiamo deciso di unirci e di provare a fare qualcosa di nuovo, insomma, diciamo abbiamo voglia di creare una nuova musicalità che sia in grado di emozionare, di dare forti emozioni, insomma. Senti, questi, Andrea, questi sono i Just. Mi metto dalla parte di uno che magari non conosce proprio tanto magari i termini musicali. Cosa significa questo tipo di musica? Gruppo vocale, sì. Gruppo vocale, perché così magari uno viene in mente che cantano a cappella. No, in realtà no, abbiamo degli strumenti, cioè nel senso noi non suoniamo, cantiamo solamente, abbiamo una band che ci segue e noi lavoriamo sulle armonizzazioni, sia abbiamo anche pezzi da solisti, però diciamo sostanzialmente abbiamo armonizzazioni, lavoriamo sulle armonizzazioni. Quindi costruite i pezzi, però per una band che suona voi cantate sui pezzi, così? In realtà noi costruiamo i pezzi su di noi, quindi la melodia è studiata per quattro voci, dopodiché cerchiamo assieme alla band di trovare l'arrangiamento più adatto. Quindi è un lavoro non da poco, Andrea? No, in effetti è abbastanza complicato trovare una melodia che possa racchiudere le quattro tonalità vocali, anche perché due componenti comunque hanno una voce molto più calda, più bassa, mentre io e l'altro componente del gruppo viaggiamo su toni medio-alti, per cui in realtà a livello di scala possiamo coprire qualsiasi tipo di canzone sostanzialmente, questo è un po' il nostro punto forte. Quindi sentiremo questa vostra caratteristica anche nella canzone che proporrà poi Agostino. Sì, nell'idea. L'idea, sì. Certo. Sì, esatto. E questa canzone che si chiama Senza ritornello, Andrea? Ci parli? Ci dici? Sì, senza ritornello. Il ritornello in musica è qualcosa che comunque si ripete, che rimane nella testa. E invece questo testo è riferito all'amore, poi lascia libera interpretazione a chi lo ascolta. L'amore invece non ha un ritornello vero e proprio. L'amore è imprevedibile e non è quindi ripetitivo. E questo può essere un aspetto negativo per chi invece si lascia attraversare dalle sue emozioni, può essere una cosa molto positiva, molto bella. Questo è un po' quello che abbiamo cercato di esprimere all'interno del testo. E l'emozione di partecipare a questa finale è forte, è viva, sì. È grande? Sì, l'emozione è grandissima. E per noi comunque è il nostro primo grande progetto come gruppo e per noi è assolutamente un onore, cercheremo di dare il massimo assolutamente. Ma è la prima volta che partecipate a un premio così importante? Sì, in assoluto sì, è il primo concorso a cui partecipiamo, infatti devo dire non ce l'aspettavamo e quando è arrivata la telefonata di Roberto al telefono sono stato molto contenuto, poi in realtà sono esploso di gioia, salti in giardino, insomma, ma penso sia anche normale. Senti Andrea, dalla voce, sei un giovanissimo, quant'è l'età media del vostro gruppo e da quanto tempo suonate insieme? Allora, io ho 23 anni, poi c'è Giorgio, che poi tra l'altro è mio fratello, ne ha 19, e l'altri due sono Stefano e Gianmaria e hanno rispettivamente 21 e 27 anni, quindi comunque l'età media è sui 22-23 anni. Certo, più o meno. Certo. E suoniamo da un paio d'anni, abbiamo cominciato divertendoci, come ho già detto prima, con delle cover di altre boy band, anche se a noi non piace molto definirci così, con questo termine. Però abbiamo cominciato con cover The Westlife, Backstreet Boys e Blue e poi abbiamo pensato che fosse ora di sfornare qualcosa di nostro. Certo. Andrea, le domande sarebbero, le curiosità sarebbero tante per ognuno di voi, ma penso Agostino il tempo è limitato, no? Beh, vabbè, insomma, avete qualche progetto già pronto per un disco, un eventuale CD? Sì, l'idea è sempre quella, ovviamente. Stiamo lavorando a nuovi pezzi, pezzi che con testi molto vari, parlando dalla guerra all'amore, alle emozioni anche che si possono provare guardando un tramonto. Insomma, noi fortunatamente abbiamo quattro teste diverse che provano quattro emozioni diverse, quindi si crea un bel mix, una qualcosa di veramente grande i presupposti ci sono, insomma, per un bel progetto. La curiosità mia di Giedi è questa: come fate a trovare le musiche adatte per i pezzi che voi scrivete, i musicisti che possono accompagnarvi? Quello che la curiosità mia di Giedi è questa. Andrea, non è mica semplice, secondo me è un mix abbastanza inusuale per la musica italiana. È la prima volta che io sento questo, o meglio, ci sono stati altri esperimenti, però personalmente è la prima volta. Sì, questa è la curiosità. Sì, effettivamente non è cosa semplice. In realtà noi infatti di solito partiamo sempre con una melodia accompagnata dalla voce. E insieme a loro cerchiamo di trovare gli strumenti e le tonalità giuste per poter sfruttare al meglio, per poter far uscire al meglio le nostre voci. Però sì, effettivamente è un lavoro meticoloso che richiede impegno, dedizione e passione sicuramente. Beh, quella deve essere sempre la base di tutto per quanto riguarda la musica, insomma. Agostino e Justice saranno ospiti a Blu Radio. Vediamo da loro se hanno poi, sai, il lavoro. Perché Andrea, a me e Gil interessa molto un esperimento di questo genere. Siamo curiosi, Andrea, veramente, perché pensiamo sia una cosa un po' originale. Teoricamente sì, lo pensiamo anche, cioè nel senso, per le nostre conoscenze crediamo di essere quasi, credo, l'unico. Appunto, sicuramente uno dei pochissimi che hanno avuto l'idea di fare di partire con questa strada, che, ripeto, parlavamo a microfono spento, è molto difficile, molto complicato. Sì, e comunque all'interno della musica italiana di oggi non è facile già in assoluto. Quindi poi, però noi, insomma, speriamo di portare una novità che possa essere apprezzata da molti. Bello, bello, mi piace. Un po' House Martin, giusto? Sì, esattamente. Però quelli erano un gruppo vocale a cappella in genere, però avevano anche gli strumenti, però erano musicisti straordinari. Sì, certo. E Fatboy Slim l'abbiamo visto ieri sera alla finale, cioè alla chiusura delle Olimpiadi, e Fatboy Slim è uno degli House Martin, chiaramente lì. Ex House Martin. Va bene, Andrea, noi ci salutiamo, che lasciamo spazio, ci manca ancora Alessandro, vediamo se riusciamo a recuperarlo e poi ci sentiamo, ci vediamo appunto a fine agosto lì a Capri. Va bene, sarà senz'altro un piacere. Saluto tutti e ringrazio tutti per l'opportunità. In bocca al lupo per tutto, sai, per il premio e per la serata finale, insomma. Crepi, grazie. Ciao Andrea, grazie. Salutaci il resto della salutaci il resto della band. Ciao, okay? Andrea. Ciao Andrea. Ci ascoltiamo adesso la canzone che si chiama L'Idea. Non va via il vuoto dentro me. È così. Sono un respiro in più. Se non pensassi a te, ma cos'è un dolore che non se ne va? Sopravviverò. Eccoli qua, i Just con l'idea, ma loro presenteranno questa canzone, cioè non hanno presentato questa canzone qui questa sera, ma loro lì al Bruno Lauzi faranno ascoltare la canzone che si intitola Senza Ritornello. Che ne pensi, Maurizio, e anche tu, Gil? Dunque, a me e ai Gil, ripeto, interessa il modo, la maniera in cui pezzi che loro scrivono e i musicisti che praticamente li prendono a contratto. Un musicista a contratto costruisce un pezzo sulla sua voce. È una cosa molto complicata, secondo me. Perché il bello è conoscere, perché ascoltata così sembra una canzone, semplice, magari come tante normale, altre, semplice. Esatto. Invece la curiosità di sapere proprio come viene creata. Penso che a Lauzi tengano conto anche di queste cose, particolarità. Dell'originalità del progetto, sicuramente. Certo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E adesso restiamo ancora a Roma. Lui, tra l'altro, Maurizio, lui si chiama Alessandro Dorazzi. Ciao Alessandro. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Alessandro. Ciao. Lui, Maurizio, volevo dirti questo. Lui è un caro, carissimo amico di un nostro caro, carissimo amico, cioè Luigi Mariano. Ah, certo, Mariano. Bene. Ottimo. Che ce lo saluti tanto, va bene Alessandro? Come no. Presenterò, ci faremo una cena, penso, nei prossimi giorni. Ecco così, ma bevete alla nostra spalle, va bene. Salutacelo okay. Tanto Luigi. Va bene, Luigi è un caro amico. Sì, anche nostro. Allora Alessandro, questa partecipazione, com'è nata e questa emozione che stai per vivere, insomma? Intanto io a Capri non ci sono mai stato, quindi un interesse che va oltre, insomma, vorrei vedere l'isola, insomma, capire com'è fatta, quello che c'è, le persone, quindi è una bella cosa. E poi comunque, ecco, una cosa importante è che hanno capito magari l'importanza del brano che portavo, quindi stare in finale mi fa molto piacere. E questa canzone che si chiama Chi c'ha il pane non c'ha i denti? Chi c'ha il pane non c'ha i denti, è un famoso detto popolare, ci ho giocato un po' su, ci sono delle rime, delle filastrocche molto divertenti, insomma, un modo di raccontare il momento che viviamo con un velo di ironia. Quindi cos'è una specie di filastrocca la tua canzone? Sì, diciamo una filastrocca dove io racconto un po' quello che manca in Italia in questo momento e quello che ci dovrebbe essere e poi quello che la realtà che vediamo tutti i giorni, no? Che poi chi veramente ha la possibilità non fa e chi magari non ha la possibilità non può e quindi questo è sempre quello che troviamo noi, in realtà poi la verità non si dice mai, non viene mai fuori, certo, no? Certo. E quindi io ci gioco. Pronto? Pronto? Alessandro? È caduta la linea? È caduta la linea, sì. La linea. Cerchiamo di recuperarlo. Intanto ci ascoltiamo la canzone che lui ci ha proposto, insomma, di fare ascoltare e si intitola Questione d'alchimia. Pensato stavolta sarai tu la mia preda. Son partito all'attacco senza pensarci un po'. Eri già sotto scacco e non mi hai detto di no. E non mi hai detto di no. Hai reagito d'istinto e mi hai preso la mano. Con un gesto mi hai spinto sul tuo vecchio divano. Mi hai riempito di pace quando tu fai così. Non sai quanto mi piaci, resterei sempre qui. Lo sai che non è colpa mia, è una questione d'alchimia. Sei tu la calamità che attira questa vita mia. Quando hai aperto la porta, io un po' me l'aspettavo. Sì, ma chi se ne importa, anche se non ci amiamo. La passione è una mia. che non è colpa mia, è una questione d'alchimia. Sei tu la calamita che attira questa vita mia. Lo sai che non è colpa mia, è una questione d'alchimia. Non sono mica matto, mi butto e me ne sbatto. Mi butto e me ne sbatto. Mi butto e me ne sbatto. Tu sei per me l'odore della vita, ecco perché sei la mia preferita. Lo sai che non è colpa mia, è una questione d'alchimia. Sei tu la calamita che attira questa vita mia. Lo sai che non è colpa mia, è una questione d'alchimia. Non sono mica matto, è una questione d'alchimia. Allora, Gilles, ci sei? Devi schiacciare il pulsante quello lì. Mi devo un po' abituare, Agostino. Sì, ci sono, mi stavo facendo raccontare un po' perché per me alcune cose sono nuove. Sentivo appunto i ragazzi che parlavano anche di come delle telefonate, dovevo capire un attimo il meccanismo. Maurizio in due secondi mi ha spiegato appunto che c'è una selezione, funziona un po' come Sanremo, no? Tu presenti una canzone, in pratica sconosciuta, nessuno assolutamente deve aver sentito questa canzone, e poi viene scelta da una giuria. Per questo sentivo un po' l'entusiasmo, la sorpresa di questi ragazzi. Sì, ero curioso un po', hai ripreso la linea con Alessandro, non sì, ancora. Sì, adesso sta. Eravamo un po' curiosi, no, Maurizio, sì. Perché ogni cantante, logicamente, come sempre, ha la sua parte originale. Eravamo curiosi un po' di sentire questa filastrocca, anche un po' già sicuramente dal titolo. Si giocava sull'ironia. Esattamente. Decisamente. Esattamente. Poi abbiamo sentito anche Questione di alchimia, che sì, abbiamo ascoltato prima, quindi si presume che grosso modo sia sulla falsariga di... C'è lui di Roma, quindi sì, riproviamo. Si è reso conto che lui di Roma, vero? Sì. Senti? Tu sei di Roma, puro sangue, suo romano puro sangue. E noi andiamo un po' indietro e ci avviciniamo a un grande romano come Rino Gaetano, cosa dici? Sì, sì. Sei d'accordo? Mi sentite? Sì, sì, sì. Sì. Sì, sì, io ho dedicato gran parte della mia vita, insomma. Anche un romano d'adozione, non era proprio romano, però insomma. No, era di Crotone. Ecco, di Crotone, appunto, esatto, romano d'adozione. Sì, però intorno ai 10 anni viene a casa, diciamo, viene a Roma con la sua famiglia, quindi da lì poi inizia la sua carriera. Io ho dedicato tanti anni della mia vita alla riscoperta di queste canzoni, quindi sono molto legato a Rino Gaetano, insomma, ecco, quindi diciamo ho preso una piccola parte di quella cosa, che ovviamente noi siamo in due universi paralleli, io è un grandissimo, non mi permetto neanche, insomma, di fare questi confronti, però ecco, ho trovato una mia strada, un modo di scrivere, magari che lo ricorda un pochino, ovviamente con le mie capacità, insomma, con il mio certo, modo, certo, con il mio stile, ecco. Sì. Alessandro, è una bella cosa da parte tua, perché di solito magari a qualcuno può dare anche un po' fastidio sentire essere paragonato a qualcuno, tu invece ne parli no, assolutamente. Con grande orgoglio di Rino Gaetano. Sì, sì, no, io infatti, guarda, nel momento in cui ho dedicato questo spettacolo, che si chiama Ciao Rino, abbiamo girato quasi 12 anni tutta l'Italia, abbiamo fatto oltre 500 spettacoli dappertutto omaggiando Rino, ma io l'ho fatto sempre a modo mio, con le mie caratteristiche vocali, quindi senza magari andare a scimmiottare o fare imitazioni stupide che non c'entravano niente. L'ho sempre omaggiato ovviamente con le mie corde, con il mio modo, con il mio stile, insomma non c'entrava. Se tu vedi il nostro spettacolo, ecco, di Rino, ci sono le canzoni, ma abbiamo le riarrangiate, rielaborate, insomma fatte ovviamente con la mia anima d'artista, insomma ci ho messo un po' del mio, ecco, questo mi fa piacere sempre dirlo, perché ovviamente accostarsi a un grande così è sempre molto difficile, come accostarsi per esempio a personaggi come Lauzi, certo, che sono stati immortali, insomma, certo, quindi hanno scritto delle cose bellissime, quindi bisogna sempre, ecco, entrare in punta di piedi quando si parla di questi grandi autori. Tu fai anche delle cover di Rino Gaetano. Sì, io ho fatto per tanto tempo un tributo proprio che era un... era, diciamo, un percorso attraverso la storia di Rino Gaetano, quindi noi raccontavamo a tappe attraverso le canzoni tutta la storia di questo grande artista, che poi è morto giovanissimo a 30 anni, quindi ha lasciato veramente un repertorio molto vasto, insomma, 7 anni di storia, ha raccontato veramente l'Italia, ecco, di quel periodo lì. Certo. Quindi, insomma, lì c'è molto da parlare, ecco. Alessandro, senti, tu alle spalle hai una intensa attività musicale, da come mi risulta, o sbaglio? Beh, io ho fatto moltissime cose anche legate al cinema, ho dato molte mie canzoni per il cinema, per i documentari, per la Rai, ho fatto molte cose, mi sono divertito sempre ovviamente a raccontare, a raccontarmi attraverso delle piccole storie, e mi piace molto giocare con le parole, con le filastrocche, infatti ho anche fatto delle canzoni per bambini, 2 dischi, insomma, ho fatto un percorso, diciamo, molto eterogeneo, ecco, diciamo, quindi mi sono tenuto molte cose che mi piacevano, ecco, le ho portate a termine con molto divertimento, ecco, lo faccio essenzialmente soprattutto perché mi diverte fare musica e mi diverte scrivere cose in cui credo, soprattutto con degli argomenti in cui credo, ecco, questo mi fa piacere dire, insomma, non scrivo per scrivere, scrivo per lasciare un segno. È la tua prima partecipazione questa al Bruno Lauzi? Sì, il primo Bruno Lauzi è la prima mia partecipazione, sì. C'è un aneddoto, io molti anni fa andai a suonare a Genova e preparai alcune canzoni di Bruno Lauzi e non conoscevo, perché mi avevano richiesto, insomma, alcuni cantautori di Genova, tra cui De André, Lauzi, eccetera. Quindi io mi sono tuffato in questo mondo e ho scoperto veramente un artista che non conoscevo, e quindi fare comunque un premio di questo livello mi fa soltanto che piacere. Beh, certo. È un'emozione fortissima anche essere in finale, oltretutto. Sì, questo mi fa molto piacere, come ho detto prima, anche penso la location, no? Faccio anche la scenografia naturale. Senti, mentre cercavamo di recuperarti, abbiamo ascoltato la tua canzone, cioè Questione... Ah, avete sentito Questione d'Alchimia. Esatto. Questa canzone come, da cosa è nata, com'è? Ma guarda, in realtà è un aneddoto abbastanza divertente, perché anni fa una ragazza mi invita a prendere un tè a casa sua e io, convinto di fare comunque la mia parte da ometto, mi preparo con i miei fiori, vado lì, busso, mi apre la porta e questa già era bella pronta, mezza nuda, pronta per me, alquanto questa cosa mi terrorizza in un tal modo che non riesco più andare avanti, cioè si chiude la porta dietro me, io ero terrorizzato, non sapevo che fa, cioè, diciamo che poi lei ha preso un'iniziativa, però è stata molto complicata la cosa, perché io avevo in testa, diciamo, tutto un percorso da fare, quindi diciamo il mio corteggiamento, poi la cena, eccetera eccetera, che poi si è vanificato tutto in 10 minuti, perché certo. E quindi ho raccontato questa cosa con Questione d'Alchimia, che poi alla fine è un mio racconto sul fatto che poi se una persona ti piace veramente è proprio uno scambio chimico, certo, che dura veramente pochi secondi, insomma. Mm-hmm. Quindi era un aneddoto molto divertente che mi piaceva raccontarlo con una canzone. E la canzone Chi c'ha il pane non c'ha i denti è all'interno, sì, di un tuo lavoro? All'interno del mio lavoro, che sta per uscire. Mm-hmm. Quindi faremo questo festival, proprio è una canzone, appunto, sarà un'occasione per farla sentire in anteprima. Certo, e poi magari ce lo verrai a presentare qui, questo tuo progetto. No, come no, come sì. No, questo sarà un... Così sarà Luigi, un piacere, come no. Così Luigi sarà contento. Magari mi organizzo con Luigi, certo. Andiamo su in macchina. Sì, perché no, ci mancherebbe altro. Lo rivedo sempre volentieri. Va bene, Alessandro, noi ti salutiamo caramente, ti facciamo il nostro grande in bocca al lupo. Grazie a tutti, veramente, mi fa molto piacere parlare di musica. Insomma, ecco, ci vediamo a Capri. Ci vediamo a Capri, il 31 ci conosceremo anche di persona, va bene? Va bene, perfetto. Buon lavoro, buone cose, buona estate. Grazie, ciao Alessandro, a presto. Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie, Alessandro, grazie. Ciao. Allora, questo era l'ultimo. Abbiamo ascoltato Stefania Spina, abbiamo ascoltato Alessandro Robles, Federica Rossi, Fabiana Dotta, Diversamente Rossi con Vincenzo, Alessandro Dorazzi, Just con Andrea Paoni, e appunto questi sono i finalisti, poi c'era anche Roberto Giannani, questi sono i finalisti del premio Bruno Lauzi che si terrà il 31 di agosto. Che ci sarò anch'io, sai? Lo sappiamo che ci sei anche te. Se caso mai rinunci, volentieri. No, Gil diceva una cosa molto giusta mentre il pezzo andava. Questo è un personaggio, questo ultimo che abbiamo sentito, che sa tenere bene il palcoscenico. Cosa sì, dici, sì, sì, sicuramente si sente sicuro di sé. Sicuro di sé anche nel parlare, certo, non ha nessun problema. Certo. Esprime veramente il suo modo di essere. È una persona che sicuramente sa tenere un palco. Ecco, a me è piaciuto tantissimo, ad esempio, a parte che questa sera per me è stato un riscoprire un mondo nuovo. Ho l'entusiasmo che va a mille, veramente, perché venivo da anni di radio in cui si presentava la canzone, si ascoltava. Invece ritrovarmi a contatto con che mi avete dato la possibilità di tenermi a contatto con questi ragazzi, veramente è una cosa meravigliosa, ognuno con la propria personalità. Ci sono, sentire ad esempio il grande livello di autostima di Stefania Spina, quando diceva che deve assolutamente venire fuori la parte migliore di me, ad esempio l'ultimo, questo che mi è piaciuto tantissimo, Alessandro, sono frasi che mi rimangono, quando dice scrivo per lasciare un segno, questo è quello che dicevi te, cioè è una persona sicura. Sicura, visto che lui aveva una band che faceva cover rivisitazioni, è brutto dire cover, facciamo rivisitazioni di pezzi di Rino Gaetano, bisogna essere bravi, non è semplice toccare un autore così importante come Rino Gaetano, bisogna darci piano, secondo me, e quindi se ha fatto vuol dire che aveva le qualità per farlo. Bravo Alessandro, bravo a tutti, ma bravo anche Alessandro, anche perché anche lui presenta qualcosa di nel suo modo originale. Esattamente. Vabbè, lo scopriremo solo vivendo, giusto, come diceva sì. Il grande Lucio. E adesso cambiamo completamente genere.